12. Quando arrivai al Paradiso, il quartiere dei palazzi dell'ente spettacolo, decine di pullman scaricavano esseri umani per i provini. Un grande tabellone luminoso indicava le entrate per la selezione e gli ultimi dati di audience. Il mio contatto doveva avvenire all'entrata 4, quella per sassofonisti, camminatori su braci e pubblico colto. Decine di ragazzi e ragazze in maglietta con la scritta «I love Son Fiero» e berretto da carabiniere anni 50 si accalcavano davanti a pochi poliziotti impasticcati. Urlavano in varie tonalità, dall'isterico all'esausto. Cercai di farmi largo tra i fan, ma non era facile. Mi ritrovai mezzo abbracciato a una tombolotta fardata che colse l'occasione per vederci meglio, salendomi sulle spalle. «Peso?» chiese educatamente, mettendomi una scarpina da ginnastica in bocca. «Stia comoda», risposi. «Chi è questo Son Fiero?» «Non conosci Son Fiero? Son Fiero di esser, quello di paese mio. Senza di te non so stare neanche un po'. Una ragazza alta così tu sei, amore carabiniere, è vero che il tuo cuore a volte fugge, l'amore è un gabbiano. C'è un suo concerto?» tagliai corto. «No», disse la tombolotta. «Aspettiamo di entrare per il provino, ma lui non ci sarà. Mettono su la sua musica e noi giù a urlare, strillare, sgranfignarci la ghigna e dar di matto. Poi, se passiamo il provino da entusiasti, allora veniamo ammessi alle riprese TV del concerto. Mi viene male solo a pensarci. Potrebbe lanciarmi, per favore? Così guadagno qualche metro?» La lanciai. Gironzolai un po', cercando di darmi un contegno da comparsa, in mezzo a centinaia di provinatori che provavano passi di ballo acuti, imitazioni di ranocchie, barzellette. Mi trovai tra le coppie ammesse alla selezione di Family Match, lo spettacolo di litigi in diretta. Si stavano allenando. Schivai per un pelo l'unghiata di una casalinga e lo sputo di un suocero. Molte cose erano cambiate da quando lavoravo nello showbiz. Un grosso camion venne avanti strombazzando. Guardando tra le fessure delle assi, vidi una cinquantina di modelle stipate una attaccata all'altra. Una di loro cercò di infilare una mano tra le assi per richiamare la mia attenzione. «Acqua!» disse con un filo di voce. Ma subito il camion si allontanò ed entrò a tutta velocità nei cancelli del Paradiso. «C'è veramente di tutto qui, vero?» disse una voce profonda alle mie spalle. Mi voltai. Un uomo, tutto vestito di nero, magro, con baffi sottili e l'aria di un ballerino di tango. I capelli erano fissati al capo da una colata di gel. Erano così lucidi che gli si specchiavano dentro le nuvole. «Già, proprio di tutto», risposi. L'uomo dal cielo in testa mi offrì un sigaro profumato, che accese con uno zippo incrostato di perline. Aveva l'unghia del mignolo laccata in viola e un anello di macadam, un vero sceccoso. «C'è una vera confusione Baol», disse l'uomo. «Come mi ha riconosciuto?» dissi un po' sorpreso. «Nel mio mestiere ho imparato a vagliare le persone. Permette? Sono Amedeus Politropo, conversatore governativo di prima categoria. Vogliamo andare a bere qualcosa?» Ci sedemmo a un bar all'aperto. Ordinammo un Fernod e un Pernet. Mi sorrideva, benevolo. Non sembrava proprio un agente segreto ribelle. Ciò provava che lo era. «Sapevo che esistevano i conversatori governativi», dissi, «ma non ne avevo mai conosciuto uno». «Naturalmente», disse Politropo, «il nostro mestiere è segretissimo. Il nostro compito è andare in giro per la città a conversare, attizzare con le nostre conversazioni l'argomento del giorno. Anzitutto, la furiosa polemica. Sa come dice la regola giornalistica? Se due persone dicono di litigare per le proprie idee, sembrerà che abbiano davvero delle idee. Poi il premio dei premi, il segreto della principessa, il discorso dello stronzo, la lettera anonima. E oltre che attizzare, dobbiamo spegnere gli argomenti che interessano da troppo tempo o suscitano troppi interrogativi. Di tutto dobbiamo parlare. Siamo erbari di metafore e arguzie, e intenditori di stopper, e pettegoli di bassa lega e teorici della complessità. Sappiamo essere irosi e dolci, competenti e arroganti, precisi e bugiardi. L'importante è che si chiacchieri. E soprattutto che non ci si allontani dallo spirito dei tempi. Per questo ci pagano». «E fate anche le spie?» «Naturalmente», disse Politropo, sorseggiando. «Ma di rado non è sempre male che si parli male». «E adesso di cosa parliamo?» «Anzitutto non parli sottovoce. Faccia ampi gesti con le mani, si finga lievemente irritato, scuota ogni tanto la testa in cenno di diniego. Qualcuno potrebbe controllarci. Sono abilissimi a captare irregolarità nelle conversazioni». Allora, dissi io, puntandogli un dito sulla spalla, mi vuole dire come posso avere un posto di mago in questo maledetto show? Così va bene. Allora, il suo uomo, il contatto interno, lavora al reparto compositori. Conosco solo il suo nome in codice, Alice. Perché fai quella faccia? Lui potrà aiutarla, almeno all'inizio. Per entrare lì dentro, invece, c'è un solo mezzo. Infilarsi in un provino. Forse ce n'è uno adatto a lei. Ballerina? No, caviglie troppo grosse. Potrebbe fare la guardia del corpo rock. Lei ha combattuto nei reparti speciali di Gioia Rivoluzione? Perché me lo chiede? Tanto sapete già tutto. Ottimo. Si presenti all'entrata 11. Chiedele il serpente e si faccia riconoscere. Obbedisco, dissi, ingoiando l'ultimo sorso di Fernò. Stavamo per alzarci quando la mole di un uomo massiccio oscurò il tavolo. Aveva un cravattino fosforescente e un sorriso da angiolone, ma lo sguardo era da iena. Era come se avesse scritto spia in fronte. «Caro Politropo», disse, «posso sedermi al vostro tavolo?» «Il mio amico sta andando a un provino», disse calmo Politropo. «Ah, bene, bene, vi ho visti così accalorati nella conversazione», disse l'angiolone. «Sport, immagino». «Certo, parlavamo del gioco duro». «E cosa ne pensa il suo amico?» disse l'angiolone con sguardo inquirente. «Il calcio è un gioco maschio», dissi io. «E un calciatore professionista guadagna fior di milioni. Vorrei essere io al suo posto e poi, se mi becco un calcio nella gamba, mica sto a frignare. Sa cosa guadagnano quelli in un giorno? Quello che guadagno io in un mese. E in quale mestiere a 20 anni puoi averci già la Porsche e la villa sulle colline? E solo perché sai dare 2 calci a un pallone? Si lamentano anche. È tutta colpa della televisione. Le racconto cosa è successo ieri. Veramente io dovrei andare», sbuffò l'angiolone. «No, no, aspetti. Dunque, stavo parlando con mia moglie della telenovela Lotta per il potere. Lei avrà certo visto l'ultima puntata. Allora c'è Esther, la bruna buona che ha avuto l'incidente in macchina con Nora, la bionda cattiva, e sembra morta bruciata, poi si salva e le fanno la plastica facciale. E senza dire che lei si è presentata da Nestor, il suo uomo che però è fedele a lei, cioè a lei prima dell'incidente, e cerca di sedurlo, ma lui dice no. Allora lei si convince che lui la ama ancora e si fa rifare una riplastica facciale per tornare come era prima. Ma intanto Nestor, disperato, perché non sa più se ama lei o quell'altra con la plastica, va fuori strada con l'auto e gli fanno la plastica facciale e sembra un messicano. Allora lei torna con la faccia vecchia, ma vede lui con la faccia nuova e non lo vuole più. E sa cosa sosteneva mia moglie? «Ci vediamo», disse l'angiolone. E con 3 balzi si dileguò nella folla. Modestamente, quando voglio, anch'io so essere un buon conversatore.